I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte e ciao a tutti. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata dei nomi delle cose a una serie di riflessioni sull'aborto e l'abbiamo intitolata Non ci siamo stufate di essere ancora a questo punto? Eh sì, perché tutte le considerazioni che ci sono venute in mente e anche la rilettura della storia di tanti anni a questa parte ci ha fatto porre proprio questa domanda. E allora, tanto per partire da qualche cosa di recente, anzi molto recente, vi leggiamo un articolo che riguarda una vicenda proprio di pochi 15 giorni fa, insomma dell'8 marzo. Sì, apriamo leggendo una notizia data appunto dal giornale di Vicenza l'8 marzo passato e che poi è rimbalzata sul resto della stampa. Titola: Malore a scuola, stava abortendo la quarta volta. Una studentessa di 18 anni si sente male a scuola, una professoressa chiama il 118 e l'ambulanza la porta in ospedale. Al San Bortolo si scopre che la ragazza sta abortendo. Quando aveva scoperto di essere incinta, aveva assunto una decina di pasticche di un farmaco contro gli spasmi addominali, che in quantità provoca le interruzioni di gravidanza e che per lo più è usato dalle prostitute. Già qui, come sì, al solito, è tutto dire dalle prostitute, perché sì. Così insomma lo rende un po' più colorito l'articolo. Sì. La giovane era la quarta volta che abortiva, e le altre tre quando era minorenne, sempre con lo stesso fidanzato, che dopo l'ultimo episodio l'aveva lasciata. Lei era stata curata e denunciata dalla polizia per procurato aborto. Ieri è stata condannata in tribunale a 15 giorni di reclusione. Allora, a parte il fatto che adesso mi ha colpito, mentre tu leggevi questa cosa, che è stata lasciata dal fidanzato. Allora, no, non ho capito questa sottolineatura. È stata lasciata dal fidanzato. E poi sempre con lo stesso. Sempre con lo stesso, però lui alla quarta volta dice no. Basta, ma ti dai una regolata. Cioè, lei si deve dare la regolata, no? Un po' l'altro, no? Insomma, al di là di tutto. Però di questa vicenda ci ha colpito subito, immediatamente, una cosa: che le hanno comminato 15 giorni di carcere. Allora, 15 giorni di carcere, seppure sospesi, mi ricordano anche una vicenda di una migrante di qualche anno fa, adesso di preciso l'anno non me lo ricordo, che aveva sempre abortito col Citotec e che si era presa un mese di carcere, sempre sospeso. Quindi vuol dire che con la 194 una donna può beccarsi in carcere. Allora, la 194, in effetti, se uno va a leggere la legge, non prevede il carcere. Perché all'articolo 19, adesso lo andiamo a cercare, perché all'articolo 19 dice che la donna che abortisce entro 90 giorni, ma fuori dal percorso definito dalla 194, è punita con la multa fino a 100.000 lire, e quindi sono 51 euro e non con il carcere. Questa multa è sempre una multa di tipo penale e non amministrativa. Ultimamente è uscito il decreto di depenalizzazione, quindi questa multa penale, col decreto di depenalizzazione che è del febbraio del 2016, invece di migliorare peggiora, perché la multa da 100.000 lire, da 51 euro, passa da 5.000 a 10.000 euro. Quindi la depenalizzazione porta a questo tipo di risultato. Questo avevamo già detto anche rispetto ad altri reati che esatto. Vengono dati, che no, appunto sono stati depenalizzati e vengono sostituiti da pene amministrative, che però sono folli, perché sì. Sono, che ne so, per un corteo non autorizzato, per esempio, non so, 2.500 euro sì, fino sì, a sì. 10.000. Io mi ricordo che addirittura quando abbiamo parlato con le compagne della rete antimilitarista Sarda, sì. dicevano che, non vorrei sbagliarmi, ma sono per l'introduzione delle esercitazioni dei militari in Sardegna, nei vari poligoni, a seconda di quelli che loro hanno disturbato, fra virgolette, c'era una penale di 50.000 euro all'ora per l'interruzione del servizio, cioè una cosa di questo tipo, no? Vabbè, allora non divaghiamo, torniamo qua. Allora, quindi adesso, cioè, dopo magari parleremo della 194 in maniera, chiamiamola, politica, però dal punto di vista specifico ci colpisce il fatto che venga comminata una pena di carcerazione, che non è prevista né qua né in nessun altro articolo. Allora, questo che significa però? È una domanda che io mi faccio e che faccio. Che significa? Che è dovuta a delle aggravanti, al fatto per esempio che questo ha abortito 4 volte, che c'è la recidività? C'è qualche ragione che comunque ci sottopone, questo è chiarissimo da quello che viene fuori, alla condanna penale, alla carcerazione, se noi non osserviamo tutta una serie di cose. Quindi l'aborto non solo non è depenalizzato affatto, perché, ma anzi è sempre cioè la condanna è sempre discrezionale, no? E quindi appunto parlavamo di quanto la 194 in realtà al suo interno non contenga nessuna pena di carceraria, che però invece, insomma, varie situazioni ci hanno dimostrato il contrario. Ovviamente poi, leggendola in maniera più attenta, ci rendiamo conto di varie parti, come appunto sempre l'articolo che citava prima Elisabetta, ci permette di vedere quanto in realtà, quando è stata scritta questa legge, in realtà è stato frutto di un compromesso che lo Stato in qualche modo ha fatto rispetto alle lotte che erano in atto, e l'articolo 19 appunto accusa fondamentalmente proprio i movimenti che in realtà professavano l'autodeterminazione della donna, e quindi in realtà mi viene da fare una domanda poi anche a chi in quel periodo l'ha vissuto più di una, cioè nel senso, la 194 è vero, una legge che in qualche modo rispetto al 78 va a, diciamo, difendere vagamente quello che era la situazione penale dell'aborto prima del 78, che era ovviamente atroce, medievale, sì, quello che volete. Però effettivamente poi, leggendola bene, ci si rende conto che comunque va a ledere appunto l'autodeterminazione della donna, che invece era quella che proprio in quel periodo piano piano era stata guadagnata dalle compagne femministe, e regolamenta in realtà ogni singolo passaggio. A me è sempre rimasto, per esempio, cioè mi ha sempre fatto saltare i nervi il fatto che bisogna parlare con lo psicologo o con, sì, la psicologa, certo, quello che è, insomma, però, cioè, nella prassi è regolamentato che bisogna fare quel passaggio, se no non puoi abortire, se lei, certo, se non viene dato il là, certo, dal punto di vista psicologico. Quindi quello che mi viene in mente è appunto che compromesso è stato quello della 194 e politicamente cosa ha significato, e poi quello che poi sicuramente apre l'altro discorso è perché si legifera sul corpo e sulla nascita e non sul resto. Cioè, non si tratta sempre di questioni sanitarie, in realtà no, lo sappiamo, l'abbiamo parlato tante volte, abbiamo scritto sul controllo riproduttivo più e più volte, e quindi probabilmente questa è la risposta. Però forse è necessario ripeterlo, perché sulla questione dell'aborto libero pare sempre che mettere in discussione la 194 sia negare il fatto che si è conquistato qualcosa, però forse è il caso di spiegare perché mettere in discussione la 194 significa dire adesso, un po' quello che abbiamo detto anche l'8 marzo, vogliamo la luna, cioè non vogliamo le briciole. Certo, vogliamo la luna? Sì, vogliamo la luna perché questo è quello che si diceva negli anni, quello che dicevamo negli anni 70. Cioè, quando si dice che la 194 è il frutto delle lotte femministe, in effetti è vero, nel senso che la 194 è stata data dallo Stato quando questo si è reso conto che il problema gli stava sfuggendo di mano. E quindi allora ha fatto rientrare il tutto nell'alveo della tutela limitata attraverso la legge. Quindi in questo senso è stata una ricaduta delle lotte, cioè le lotte hanno provocato una necessità da parte dello Stato di adeguarsi e di prendere dei provvedimenti. Quindi la 194 è vero che è frutto delle lotte, però è la risposta dello Stato a un'autodeterminazione che era generalizzata e che le donne avevano assunto in quel periodo e non intendevano in nessun modo mollare, tant'è vero che in questo senso noi volevamo la luna e lo Stato ci ha dato i consultori e la 194. Questo è stato, tant'è vero quello che diceva Noemi prima riguardo alla legge proprio. Nel passaggio in cui ci sono poi le condanne, quindi i deterrenti rispetto al percorso che non viene fatto secondo la normativa e quindi fuori dalle strutture di Stato, secondo il percorso dello Stato, c'è la multa per la donna che trasgredisce entro i 90 giorni e il carcere per la donna che trasgredisce dopo i 90 giorni, però ci sono condanne penali dirette invece per chi fa l'aborto, cioè il medico o chi pratica l'aborto alla donna subisce una condanna penale. Infatti entro 90 giorni con la reclusione fino a 3 anni e molto di più dopo se lo fa dopo i 90 giorni. Allora, detto così, quella volta già c'è stato tutto il femminismo socialdemocratico che ha inneggiato al fatto che questa norma sarebbe stata contro i cosiddetti cucchiai d'oro, perché così i medici non facevano gli aborti fuori dalla legge, non facevano gli aborti clandestini, eccetera. Mentre non si sono resi conto, e ancora nessuno lo sottolinea, che questo tipo di normativa è un grande freno all'autodeterminazione delle donne, perché impedisce di fatto alle donne di organizzare luoghi autonomi in cui abortire, con compagne come si faceva negli anni 70, con anche ginecologhe, cioè metti che delle ginecologhe compagne volessero fare delle strutture in autodeterminazione, dei luoghi politici in cui far abortire le donne con le donne, eccetera, hanno la reclusione fino a 3 anni. Non voglio sapere se sono recidive, non voglio sapere se sono in consorzio, cioè se sono più di una, che cosa succede in questi casi rispetto a una situazione penale di questo tipo. Per cui questo aspetto non viene mai tirato fuori, cioè che la condanna penale nei confronti di chi fa gli aborti non è vero che è contro i cucchiai d'oro, ma è contro l'autodeterminazione. Tant'è vero che questa cosa famosa dei cucchiai d'oro ha un senso in una situazione di come era quella prima degli anni 70, in cui la totalità, qualsiasi tipo di azione abortiva era condannata e quindi c'era chi ci speculava sopra e ci guadagnava. Anche se questo anche va visto diciamo in un'ottica, a seconda ecco di come uno lo guarda. Perché? Perché l'unico modo per eliminare la speculazione, se la vogliamo così chiamare, su una necessità e quindi sulla necessità della donna di abortire quando non ne ha la possibilità, è di rendere l'aborto libero. È chiaro che in una situazione vincolata anche alle sole strutture dello Stato si apre non all'aborto clandestino, perché il termine aborto clandestino è sbagliatissimo, si apre all'aborto fuori dal percorso di legge. Però il percorso di legge, cioè è il percorso di legge che provoca la speculazione economica, perché se l'aborto fosse libero crollerebbero immediatamente due cose. Una, gli obiettori di coscienza, perché la maggior parte dei medici lo fa per comodità, non è vero che lo fa per posizione ideologica. E qualora ci potesse guadagnare facendo gli aborti anche nel proprio studio, immediatamente mollerebbe l'obiezione di coscienza. E allo stesso tempo il fatto di non avere il percorso vincolato e quindi non la condanna se uno lo fa al di fuori dello Stato apre all'autodeterminazione, perché si possono fare luoghi di donne fatti da donne in cui le donne abortiscono come vogliono, quando vogliono, con le altre donne in tutt'altro clima che non sia quello della come diceva Noemi, dello psicologo attraverso cui devi passare, o comunque della trafila, della condanna, no, certo, dell'obbligatorietà di tutta una serie di ambienti che devi frequentare, perché il fare un aborto in una situazione tra compagni in un luogo di donne non è come farlo in una struttura ospedaliera. No, appunto, infatti è proprio la regolamentazione che viene costretta, cioè i passaggi che devono essere fatti per poter abortire sono quelli che inducono poi ad oggi, perché io non vado a mettere in dubbio il fatto che negli anni 60 ancora ci fosse un livello di aborti fatti da, non so, maghi nei paesi, o che ci fossero quelle situazioni tali che hanno ovviamente messo in serio repentaglio la vita di molte donne, perché non c'erano sicuramente, cioè magari non c'erano nemmeno percorsi, no, di autodeterminazione di donne e di compagne, e quindi ovviamente non c'era nemmeno lo spazio, perché certo, anche all'epoca comunque non sono tantissime poi i luoghi in cui le compagne erano riuscite a riprendersi quello spazio di conoscenza. Però in realtà ci sono narrazioni, ci sono in realtà, però non si tirano mai fuori, donne che nei secoli hanno praticato gli aborti tra donne. Si faceva, era una ovvio, pratica di donne tra donne. E che era pericoloso, è pericoloso qualsiasi, cioè nel senso, non voglio fare l'esagerata, però nel senso si può morire anche se vieni operato al piede, certo, per dire, per setticemia. Certo. No, ma è così, nel senso che il fatto che sull'aborto sia stato costruito tutto questo castello è proprio dovuto soltanto ed esclusivamente al fatto che dipende dal controllo sociale che vuole esercitare il sistema. Perché? Perché quando una va dall'ortopedico vuole il servizio gratuito, vorrebbe, mettiamo il condizionale, il, esatto, servizio gratuito dallo Stato, che lo dovrebbe dare, però nessuno impedisce a nessuna di andare da un ortopedico privato, da andare da un curatore indiano, da andare a farsi massaggi di un tipo che sa che, pensando che siano migliori di qualsiasi cura cortisonica, e a nessuno viene in mente di parlare di, come si dice, tibie d'oro invece che cucchiai d'oro. Cioè, l'impostazione è completamente sbagliata, cioè non si vede perché l'aborto deve essere considerato in maniera diversa da qualsiasi altro, o meglio si vede perché è un modo di controllare il corpo della donna, tant'è vero che per il parto, poi tu hai un'esperienza recente, il parto non è proibito da nessuna parte. No, il parto non è proibito da nessuna parte, anzi sono aumentati i parti in casa, e anche lì c'è, cioè sicuramente il problema sul controllo, perché il parto riguarda sempre il controllo riproduttivo, certo, quindi c'è una grossa medicalizzazione. E non grazie al cielo e alla mia amica ostetrica ho avuto la possibilità di non subire violenze ostetriche che però avvengono, quindi però il luogo dove io posso svolgere il mio parto è a mia scelta. Certo. Poi il percorso che ti porta a partorire, quindi tutta la gravidanza è medicalizzata, all'interno dell'ospedale si rischia di subire violenze di ogni genere, dallo psicologico alla violenza ostetrica, medicalizzazione di ogni genere e di ogni tipo. Però nessuno ti obbliga a partorire in E nessuno ti luoghi dice con chi previsti. e come. E come? Cioè tu puoi partorire sulle scale della chiesa, in campagna, a casa tua, in ospedale, eppure non mi dicano che non è pericoloso perché sono in gioco due vite e non soltanto una in No, questo no, caso, no? anzi, in realtà proprio molte sostengono, lo sostengo anche io, che nella maggior parte dei casi, a meno che non ci siano particolari problemi in gravidanza, il parto si possa fare tranquillamente con un'ostetrica o comunque con qualcuno che abbia, insomma, cioè, nel senso la capacità di Certo. capire due o tre cose su come farlo, tant'è che tante partoriscono da sole, cioè nel Sì, non senso. solo, ma il percorso dell'aborto vincolato alle strutture dello Stato infantilizza tantissimo la donna perché ti obbliga a riflettere secondo loro su quello che stai facendo, a pensarci due volte, a considerarlo comunque sempre una cosa da prendere con le pinze e compagnia bella. Quindi ti obbliga, lo Stato vuole obbligarti a riflettere. E quindi, mentre è chiaro che la donna, non essendo assolutamente cretina, sceglierebbe dove fare l'aborto come meglio crede, perché non mi pare che chi sceglie dove fare il parto sia sconsiderata da non scegliere il luogo che secondo lei è più adatto. E mi pare No, che ci siano tutte queste sconsiderate che vanno a no, partorire è sulla quello, è il luna. fatto di pensare appunto che io scelgo qualcosa che mette a repentaglio la mia vita, cioè nel senso, ma chi è che lo fa? Cioè, Appunto. non, se io voglio fare un'operazione, non vado a pensare Mette a repentaglio la tua vita quando sei obbligato a scegliere percorsi che Esatto. sono invece precari perché non hai la libertà di scelta, perché nel momento in cui è proibito, tu ti arrangi e anche chi te lo fa in maniera arrangiata. E questo il problema di fondo. Diciamo che si imposta il problema sull'aborto sempre, dovrebbe essere completamente ribaltato. L'approccio all'aborto e comunque di pratica non dovremmo avere bisogno dello Stato, noi dovremmo organizzarci in maniera autonoma. Bisogna ricominciare a riflettere su quello che è successo, su come abbiamo avuto la 194 e come abbiamo avuto diciamo tutte queste leggi di stampo riformista, come ci sono state date e perché. Quindi il discorso dei rapporti di forza che siamo riusciti a mettere in atto quella volta e quindi non chiedendo niente, ma spostando il rapporto di forza, poi lo Stato ti dà. Se noi abbiamo una chance adesso di voler l'aborto, dobbiamo rivendicare solo e soltanto l'aborto libero e dobbiamo rivendicare che noi lo facciamo ovunque, dovunque, come ci pare, dove ci pare e con chi ci pare. È l'unico modo per avere una chance tale che lo Stato, se non vuole questo, si prenda dei provvedimenti. Anche perché ribadiamo che è colpa dello Stato e quello che rappresenta, e non si tratta né della destra né della Chiesa, che No. come entità supreme ci impediscono No, no, perché le leggi non sono, cioè la Chiesa e la destra hanno una loro visione, ma in questo momento non sono quelle che fanno le leggi, non sono quelle che governano, non sono quelle che gestiscono né questo Stato né questo sistema. Quindi fare riferimento alla Chiesa e alla destra come autori di questa situazione disastrosa che c'è e di questa mancanza di possibilità delle donne di autodeterminarsi, non solo è un falso assoluto, ma è un cioè, ma non ti permette di individuare i veri responsabili. No, no, anche perché per esempio, cioè a me viene sempre l'esempio, no? Che al massimo può essere stata la questione della Chiesa, il fatto che noi abbiamo il Vaticano qua, come viene rivendicato spesso da Certo. tanti, è stato usato ovviamente come specchietto per Come? l'allodole per continuare il controllo Certo. riproduttivo sulle donne. Perché paesi cattolici come la Spagna non hanno tutti questi problemi sulle procedure sull'aborto. Certo, anche loro ovviamente, Beh, c'è essendo un paese stato. socialdemocratico, hanno avuto dei problemi, però voglio dire, non è il problema, cioè nel senso la questione è anche lì, era spostata su quello che era lo Stato, chi era che faceva le leggi, Sì, cos'è che muove infatti, il governo, non infatti. era il movimento cattolico spagnolo che No, interferiva di nuovo contro il corpo delle tant'è vero donne. che quando hanno provato a fare quella E legge sono più cattolici estremamente loro sì, esatto, di noi. quella legge estremamente restrittiva sull'aborto, qualche anno fa, non tanti anni fa, un paio d'anni fa mi pare, Sì. in Spagna, hanno provato a far passare questa legge estremamente restrittiva che per fortuna poi non è passata. È chiaro che il controllo delle donne lo vuole, cioè è vincolato, vuole essere un sistema di vincolo rispetto al nostro corpo dello Stato. La Chiesa viene usata, la destra viene usata a seconda di quanto una volta aveva un peso importante. Tant'è vero che proprio a proposito della Spagna, io mi sono, quando passava il discorso, quando volevano fare la legge in Spagna, che poi contro l'aborto, che poi fortunatamente non è passata, ci dobbiamo ricordare un fatto importante che è avvenuto proprio quella volta, che un gruppo di eurodeputati del PD al Parlamento europeo, quindi il nostro PD, ha votato contro la risoluzione di Edita Estrela del gruppo Socialisti e Democratici SD per il riconoscimento dell'aborto come diritto umano delle donne da garantire sicuro e legale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Il PD nostro ha votato contro e non ha fatto passare questa mozione. Che se ci fosse stata questa mozione, il Parlamento spagnolo non avrebbe neanche potuto presentare quella proposta di legge, che per fortuna non è passata. Quindi dobbiamo sempre stare, cioè cercare sempre di riconoscere chi è il portatore di tutta una serie di cose, altrimenti. E comunque, tanto per finire, anche questo. Un paio d'anni fa in Spagna, sui muri di una chiesa, delle compagne a Valencia hanno scritto una frase che a noi è piaciuta moltissimo e che sintetizza un attimo tutto il discorso sull'aborto e che diceva: io abortisco perché lo voglio e basta. Quindi, noi dobbiamo far passare questo, l'aborto libero, e noi abortiamo perché lo vogliamo e basta. Ciao e alla Ciao. prossima!